Sabato 15 febbraio 2025, ore 19, siamo a ITC Teatro di San Lazzaro, Divine, di e con Danio Manfredini, liberamente ispirato al romanzo Nostra Signora dei Fiori di Jean Genet. Intanto buongiorno Danio e benvenuto. Buongiorno a voi. Parliamo di un capolavoro che ho avuto modo anche di leggere e partiamo da questa storia di emarginati tratta dal romanzo di Jean Genet, Nostra Signora dei Fiori. Cosa ti ha attirato in origine di questo testo, Danio? Allora, è un testo che sono caduto dentro per anni nella lettura di quel testo e non so bene spiegare neanche io il perché, ma sicuramente c'era un aspetto, diciamo, di rifugio da una parte, perché Genet in qualche modo si addentra nella storia di Divine, di Nostra Signora dei Fiori e Mignon, insomma i personaggi che fanno parte dell'opera, come una sorta di fuga dalla condizione carceraria che stava in quel momento scontando, perché era finito in galera e in galera ha scritto il romanzo. Di conseguenza c'era una sorta di forse focolare nel quale fuggire da una condizione che comunque era dura, il carcere degli anni 40, attraverso la scrittura trasformare anche la realtà intorno, perché poi vestiva i personaggi dell'opera attraverso le caratteristiche dei suoi compagni carcerati. Divine parte da un film non fatto, il canovaccio di un film che ha trovato posto poi in un altro spettacolo, Cinema Cielo del 2003. Ci puoi parlare di quest'azione retrospettiva sulla tua opera e perché recuperare oggi il canovaccio con quali nuove letture possibili? In realtà appunto iniziò con l'idea di fare una sceneggiatura per un film su Nostra Signora dei Fiori, poi molte traversie, per cui alla fine invece è entrato in Cinema Cielo, che è appunto uno spettacolo dove c'è un cinema luci rosse, dove va un film e il film è ispirato a quei personaggi di Genet. E quindi è stata fatta questa riscrittura per una sorta di sala da cinema, però in teatro, quindi questo è Cinema Cielo. Nel corso di quel periodo comunque avevo tracciato parecchi schizzi, diciamo per fare uno storyboard riguardante il film, e anni dopo li ho ritirati fuori perché poi non li aveva visti nessuno e diciamo che il motivo è stato più dai porto fuori i disegni che avevo fatto in merito a questa storia. Di conseguenza ho apprendendo in parte dalla sceneggiatura che va in Cinema Cielo e in parte rivisitata la scrittura per la lettura che viene fatta in Divin, ho messo in piedi questo lavoro che ho condiviso così quasi senza pensare che fosse un vero e proprio spettacolo da proporre, poi invece ho visto che ha avuto una risposta così che mi viene richiesto e quindi sto continuando a farlo. Sarai da solo in questo spettacolo? Sono da solo e sono anche abbastanza assente, nel senso che sono in un angolo e do voce ai personaggi, quindi fondamentalmente il lavoro è basato sulla musica che accompagna queste immagini, sui disegni che sono proiettati, io do voce man mano, sono in un angolo a destra in proscenio, do voce man mano che arrivano le immagini alle figure, in parte narro la questione come se fosse un po' la voce di Genet e in parte interpreto i testi, i dialoghi tra i personaggi. Qualche anticipazione ce la puoi dare sulle musiche, sulla colonna sonora, chiamiamola così? La colonna sonora è la stessa che uso fondamentalmente in Cinema Cielo, perché sono appunto è collegata alle stesse atmosfere, ci puoi trovare dentro da Eminem, da Pink Floyd, quindi da Comfortable Numb a Forever Young, come anche appunto magari invece un pezzo di Eminem o un pezzo di Arvo Part, insomma ci sono un po' queste musiche tra, e anche Bach, ci sono un po' queste musiche tra il lirico antico e contemporaneo, direi, cioè classica e contemporanea, diciamo ha una cifra lirica. È uno spettacolo a cui seguirà un incontro all'ITC Lab con l'attivista consigliera comunale ed ex presidente del movimento Identità Trans, Porpora Marcasciano, il tema è la vita al margine. Puoi dare qualche anticipazione su questo percorso di dialogo? Ma questo non lo so perché avverrà lì, quindi non so bene come sarà la cosa. Mi hanno detto che ci sarà appunto questo incontro, il tema del margine è comunque un tema che ricorre nell'opera, nello spettacolo e soprattutto nell'opera di Genet. Diciamo che per me la questione del margine non è solamente, direi, legata alla questione emarginazione, è proprio legata a volte a una condizione, non dico scelta, ma anche un po' dettata dalla specifica personalità delle persone che si trovano a viverla. Quindi nel romanzo di Jean Genet e di conseguenza in Udin c'è la presenza di queste figure che hanno scelto di andare un po' per la loro strada, quindi non hanno seguito i dettami, diciamo, che la società tende a suggerirti o a importi, e hanno cercato un po' come Genet di attraversare la loro vicenda, il loro destino attraverso il loro sentire. Quindi come Genet, orfano, è scappato di casa, ha iniziato a fare la vita un po' da vagabondo, che poi l'ha condotto in riformatorio prima e poi in galera, però in galera poi ha scoperto questa sua vena artistica di scrittore e ha iniziato a scrivere romanzi, la Gallimard, attraverso alcuni intellettuali come Cocteau e Sartre hanno promosso questa iniziativa, ce ne fu graziato dopo 10 anni di carcere e ha continuato la sua attività di scrittore e drammaturgo per il teatro. E per quanto riguarda lo spettacolo, sarà sabato 15 febbraio 2025 alle ore 19 a ITC Teatro Divin di e con Danio Manfredini, liberamente ispirato al romanzo Nostra Signora dei Fiori di Jean Genet. Io ti ringrazio tantissimo per queste anticipazioni e ti auguro una buona giornata, Danio. Grazie a te.